il tempo stava cangiando. Andato via il sole per cariche nuvole d'acqua che arrancavano da ponente, Blasco Moriones sentì di poter finalmente respirare dopo 3 ore di corsa a rete nestesi, e il groppo che aveva in gola gli si allandò da botto, tanto da permettergli di fermare la mula e di contemplare dall'alto della collina dell'uomo morto il panorama bianco e rosso delle case e dei tetti di vegata. Taliò il mare che si era imbruttito, grosso cavallone sbattevano sulla playa uno dopo l'altro, si rompevano in altissime spruzze contro il braccio del porto. Dentro però si sentiva ancora vacante. La corsa non era riuscita completamente a calmarlo, a fargli ritrovare quell'equilibrio che da sempre era la sua vera forza. Si era messo in cammino per Fela pieno di speranza. Troppa esperienza lo faceva sicuro che magari questa volta i fratelli Munda non sarebbero mancati. Era partito certo di potersi ripresentare a Don Totò dicendogli che tutto era stato sistemato, che entro la nottata le 5.000 cantare di sulfuro prestate dai fratelli Munda sarebbero arrivate a Vegata comunque, per ferrovia, per carretto, magari a spalla se c'era bisogno. Blasco Moriones sapeva che il no dei fratelli Munda questa volta per davvero significava la fine, la rovina certa. Nel magazzino di Fela aveva insistito, si era incaponito assai più di quanto fosse suo dovere, intestandosi a spiegare la congiura fatta a Vegata ai danni di Don Totò, ma si era trovato davanti un muro. Poi, nel ben mezzo della discussione, gli era caduta sopra una grande stanchezza, aveva capito che con quei due apriva la bocca solo per fare vento, manco se si faceva il sangue riusciva a portarsi un grammo di sulfuro. Sicuramente Don Cicciolo Cascio, che aveva la vista lunga, per prima cosa si era quartiato alle spalle a Fela e aveva saputo trovare una leva più forte di Don Totò per tirare dalla sua i fratelli Munda. «Io capisco e apprezzo la vostra devozione a Don Totò», aveva detto Mario Munda, senza tagliarlo negli occhi, «e questo, se doveva essere segno, segno era. Ma pure a noi dovete capirci. A Don Totò, se me lo domanda, daremmo la vita. Ma sulfaro no. Ora come ora non ne teniamo. Vuole soldi? Vuole i nostri magazzini? Se li può pigliare, sono suoi. Ma sulfaro non ne abbiamo e manco sappiamo dove trovarlo». Ancora sulla mula, con Vegata ai suoi piedi, distante quasi un'ora di cammino, Moriones si rese conto che al momento di portare la malanova a Don Totò non il coraggio gli faceva difetto, ma il cuore. Del resto sapeva che tra lui e il suo padrone non ci sarebbe stato bisogno di parola, bastava una sola occhiata per contarsi l'arca e la merca. Svagandato era. Lento lento scese dalla mula, un poco stordito, girando lo sguardo attorno come se non riconoscesse il posto dove si trovava. E dire che c'era passato e ripassato 1.000.000 di volte, e si sedette con le spalle contro un mandorlo. Vicino alla sua mano destra c'era una cioffa d'aceto sella. Perso in quella specie di legge vertigine, ne strappò un ciuffo, se lo portò alla bocca. Sempre gli era piaciuto, magari da grande, il sapore dell'aceto sella, aspro al punto giusto e rinfrescante. Aveva il cuore di piombo, eppure con quel sapore in bocca gli venne subito voglia di mettersi a correre, di arrotolarsi in mezzo all'erba. Il vagante di prima ora si andava riempendo ad agio d'inopportuna allegria. E la prima cosa che gli venne in testa fu un'idea tradimentosa. Forse magari lui, senza saperlo, provava contentezza per la prossima fine di Don Totò. E perché, se da quell'uomo non aveva avuto mai altro che bene? Fu un lampo, appunto, che si affrettò a dimenticare, chiudendo per un momento gli occhi e riaprendoli a tagliare a lungo il cielo che oramai da tutte le parti si invoscava. Poi tirò un sospiro fonduto e fece per mettere la mano al gilecco dove teneva la pipa, ma a metà gesto il braccio si fermò paralizzato.